E pensiamo anche che questo provvedimento possa essere un aiuto, un supporto significativo per la trattativa che partirà, mi auguro, noi auspichiamo, ma penso che così sarà, molto presto, sulla una negoziazione per i nuovi assetti contrattuali. Quindi è una direzione che va, come dire, c'è una direzione verso un maggiore peso della parte variabile del salario, verso un maggiore peso del salario più legato alla produttività, che è una richiesta, è un'istanza che Confindustria fa da sempre. Noi abbiamo sottolineato che dal nostro punto di vista questa trattativa deve essere lasciata sostanzialmente all'autonomia delle parti. È ovvio che se poi il governo, vista l'importanza dell'obiettivo, vorrà mantenere un'attenzione, ovviamente lo condividiamo, ma noi pensiamo che sia materia sostanzialmente che va lasciata alle parti.